giusto che valga. Sì, ma lo dico, non c'è stata una collisione, capito? Tu sei caduto, la moto si è rotta perché la moto è caduta per terra. Ma che si è toccato la ruota mia, che è gomma, o ha toccato la gomma sua della ruota, e non c'è segno, allora tu non c'è stata collisione, purtroppo è così. Insomma, è un casino già. 3.040 euro, ma intanto me ne dai 3.000, me ne dai, non me ne fotti nulla. È una cosa assurda, è una cosa assurda. Sì, ci deve essere l'impatto per pagarti, perché io mi ricordo che anche quando ho avuto l'incidente io, questa qui è passata allo stop, io per evitare l'ho sterzato e avevo avuto una collisione con il muro e quindi non mi ha pagato nessuno, capito? Perché non l'ho toccata, mentre se l'avessi toccata avrebbe pagato tutto lì, ma uno per istinto cerca di evitare. Sì, ma io ho due testimoni, è già una cosa diversa. Poi tra l'altro c'ho anche il suo messaggio, quindi io, da lì non scappa, capito? Sarà già l'avvocato, il giudice, eccetera, che il personaggio dice apposta che non è passato col rosso perché me l'ha scritto bene il messaggio, me domacco. Vabbè, comunque c'è una prova grossa quella lì. Più i testimoni, lo fa l'autista per non pagare sia gli 8 punti che li tolgono, sia la divisione della patente per quando superi 30 giorni di ospedale, e poi sia per non prendere la multa. Lo fanno per evitare questo, lo sanno già, me l'ha anche detto l'avvocato. Ah, io penso che loro non abbiano interesse di evitarlo, visto che a me me l'hanno fatta fare la revisione la volta che mi sono sbattuto al muro, me l'hanno fatta fare la revisione di patente. Ma non lo so, io così ho sentito già, poi non lo so, che uno si supera 30 giorni di ospedale e fanno fare alla controparte che ha creato l'incidente la revisione patente. Poi non lo so come funziona, sinceramente, se io male ho sentito, male ti sto dicendo, non lo so. E insomma, è interpretazione questa legge, ma secondo come vogliono farlo loro, se conoscono le persone magari le aiutano, capito? Come hanno fatto con quella mia, hanno cancellato il nome, hanno depennato e hanno lasciato solo a me in prefettura l'ufficio depenalizzazione, avevo provato solo il mio nome, solo ha depennato perché conosceva gente, ecco perché l'hanno fatto, conosceva i poliziotti che sono intervenuti. Sì, ma comunque mi hanno detto anche l'avvocato che le assicurazioni cercano sempre di pagar di meno, capito? Anche se la mia assicurazione che deve anticipare a me e dopo si fa l'esercizio alla controparte, cerca di pagare meno. Infatti hanno detto me il 50%. Io ho detto qua a fine che bisticcio, perché gli stavo per dire scusi, ma lei cosa c'ha? La bustarella se per caso paga di meno a me. Cioè non ho capito, Ma non ho detto, ma cazzo mi è stato zitto, guarda che non è così, l'ho detto. Ho letto sull'articolo 2054, no, non è così. No sì, però ho detto, scusi, comunque se tutto va male ci vediamo in tribunale, non c'è problema lì. Quindi, e poi chi deve pagare paga di più, già lo sa lì, è rimasto zitto, perché me l'ha detto l'avvocato a me. Intanto non paga il liquidatore, paga l'assicurazione. Liquidatore di tante assicurazioni, magari ce n'è uno per 3-4 assicurazioni, capito? Allora il liquidatore della soluzione mia automaticamente deve anticipare, siccome lui ha voluto magari di anticipare queste 1.040 euro della moto, allora cerca di sdeviare, scaricare, no, andate contro l'altra assicurazione, vi deve pagare lì, noi paghiamo anticipatamente se viene la collisione, siccome non c'è stata dobbiamo pagare tutto il resto loro, vabbè. Agito, chiave di chiamare immediatamente, che si dirà che era il doppio, il della moto è 1.040 euro, 2.040, 1.080 euro voi mi danno per la moto, perché al momento, diciamo il coso, io ancora mi fa male il piede, devo fare ancora, ecco, e a dicembre se ne parla, vedrai un po' tu come aumenta le dinamiche. Ma è tutta a pagare questo cacchio di assicurazioni, i soldi li vogliono subito, ma a mollarli quando ci sono, ma perché cosa le paghiamo queste assicurazioni, non ho capito. Io faccio bene comunque un bel scherzetto, perché intanto adesso me ne stanno via con l'assicurazione, la moto l'ho già venduta, non me ne ha fruttato nulla. Dico, signore Miri, si c'è da pagare gli altri 6 mesi, perché l'ho bloccata l'assicurazione, no, venga le foglie, l'ho venduta la moto 2 mesi fa, e neanche non ho venuto prima, perché, ripeto, stavo male, non potevo venire, figlio della luce, ciao, non mi pagate la moto, e me ne stanno via. Ci serve da fare anche sull'altra assicurazione, se mi succede una cosa del genere, automaticamente, sì, paghiti, faccio l'incidente io, va bene, pagate, dopo che pagate io mi vado da un'altra assicurazione, mi pagherò 2 punti in più l'altra assicurazione, però loro hanno sborsato e non vedo più soldi da me, c'è da farglielo, Ma adesso è tutto libero, non c'è bisogno neanche di dare disdetta, Antonino, è tutto libero, finito. passo l'anno, ho pagato l'anno, puoi andare dove vuoi quando è terminata la scadenza. Sì, lo so, lo so. Ho sempre fatto così io, quindi non c'è problema. Vabbè, ma non c'è nessuno qua, non c'è nessuno. Sono già lì 7:12. E voi stasera non ne hanno voi, lo deve essere. Tutti ricchi di porco stanno facendo, ragazzi. Kappa. E chi è? Alternata. Aio, vuoi entrare? E adesso il segnale è abbassato leggermente già. Cazzo, una radio va. Più forte la radio? Sì. Che c'è una cosa? Ecco. Ha capito cosa? Onesca. Comunque è meglio la radio così. Sì, già lo credo, Giallo. È stato un risveglio, No, ho staccato con l'affare piccolino. Perché? Con la tranquillo ti fa fischiare. Ehi, ma lì, adesso. Comunque la radio è più forte adesso. Sì, Tony, ti sto dicendo che eravamo moretti. Si attacco, guarda. Qui innesca, sì. Non devo attaccarlo con la Gigia. Ma sicuro che se non ci sono stazionari? Nulla. Aspetta. Oh, 1-1. Prova a recolare con le radio già attaccate. Aspetta che se non mi innesca. Allora. 1-5. Vedi, sono un me. Come mai? Lui non è accordatore. Si muove spezzone, non è una spezzone. Comunque non lascio così, il segnale com'è Gianni così? Uno. Il segnale è buono, ma la radio è ultima. No, non buona, ultima. Ok. Andrà bene, dai, lo lasciamo così allora. Devo trovare il sistema per mettere il suo microfono. Te lo in mano, mi rompe il balluccica. Coricato, dove lo metto, casino. Fallo drummi. Niente, devo trovare la stellazione, raga. A meno che... Taglio un pezzo. E gli faccio sbucare il microfono fuori dalla tavola che c'è sopra. Taglio un pezzo, mi sei giusto dal microfono. Capo, se no li fai uno sportellino fuori, un tipo, cosa ti posso dire, una mensolina e una puttana. Che casino. Così non fischia, è buona la radio. È più male. Perché sono troppo vicino, è troppo vicino, ce l'ho in alto per forza. Vabbè così già. Prova. Ora, 1, 2, 3, prova. C'è forza. Ma dove lo metto il microfono? Non posso dire la musica. È andata, preoccupato. Appoggialo sulla sedia, dove ti piace. Lo appoggi e parli quando è, poi meno gavi, cosa devi fare? Se non c'è il posto. Gianni, dove sono io? Non ci sta neanche la sedia. Aspetta, dove sono io non ci sta neanche la sedia, ha fatto il gonfio. Cioè se no 30 centimetri, 35 centimetri di spazio. E che vuoi che ti dica? Allora appendilo. Prendi un cavolo, appendi al soffitto. Allora, il mobile ha fatto 40 centimetri, fatto il conto. 40 centimetri, alto 1,20 m, a fanculo, cioè di... A che potenziato, senti? Protezione, un po' CRC ci vuole, dai. Sempre posteggiato una parte, poverino, gà. Ne metti prima soffia l'ottolì, o con l'aria, o con la bomboletta d'aria, e poi glielo metti, sennò si impasta. Aspetta, senti i piedi. Alla Falcone. Vai, caro, caro. Guarda via, l'imerica c'ha più di ferro. Oh, nei tonino Kawasaki. Ah, è come me lo dici tu, senti i miei peli. Ah, ancora pio pio, gà. Ne avruscio. Oh, va niente, lo devo guardare, dalla foto so che lo devo guardare, lo devo non lo guardo mai, gà. Vabbè, va. Domani se c'ho un po' di tempo non mi corco e mi guardo il microfono. Infatti, io oggi ho fatto così, mi sono coricato poco, dai. Sono alzato e mi sono messo a fare un po' mandronato, dai, e poi perché le faceva male la gamba, adesso un po' mi sta passando, ma sta facendo effetto un mezz'tardi, Lucchi, che avevo preso stamattina presto e mi ha fatto effetto sul tardi. Perché fuori di prenderlo già poi non si fa più effetto nel casino. Ma io ripeto, la mia figlia devo accompagnare, c'è un cavolo, ho riposato poco e nulla. Ma tutti i giorni va a ballo? No. Due volte alla settimana sarà, no? No, ci va due volte alla settimana, non c'è più. Allora, la volta che non va più va. Sì, per sabato non ci va, domenica non ci va, capito? E io posso farlo sabato di vita. Mi pare che tu non hai gara di farlo. La verità è quella, se lo spazio non si trova, o sbaglio. Sì, non so cosa c'è, non so c'è, non so c'è. Adesso lì, come la fa venire la causa stamattina? Perché tutto quanto mi domandò di Isa, già me l'ha tutto a me. Chi deve scrivere? Quella stronza non mi ha scritto. Tu ne ci sentiva tutto, me. Non è mica per me, c'è quella stronza che è mica sopra. Mia figlia. Che ha pagato. Niente, mi ha scritto da quella stronza, però mamma mica non mi ha scritto, ha fatto una cadere. Vabbè, sai come. Però mi ha mandato il messaggio, no? E mi ha scritto, domani vieni a paese suo. E tu gli hai detto di no, e sei incazzata. Secondo te, questa macchina si è aperta di campagna a me. Attraversala, di pomeriggio a mezzo lui, giù a paese suo, lascia la vita la roba da... Cioè, devono disarmare quelli che hanno trovato, capito? Le metti di fronte. Posso già lì andare lì domani sera a prendere, ma la casera, ma quella lì senza macchina, no? Sì, io non devo prendere la macchina, lui siamo i vecchi, mi dice che ha risolto il problema. Infatti, ma di pagare la situazione, tutto quanto, se no, è una biccia lì. Ma lì almeno, non è che passa la caratteristica. Mentre se ne comprava una macchina da 300-400 euro, oppure pigliare quella che stava regalando e fare il passaggio. E immagino magari 400 euro di passaggio e più l'assicurazione, fa pulire la macchina che dà, ma non tenete. E si mette a palizzi. Ma se la mia luce, poi protegge di tutti. Quindi, lei ci va spesso dalla mamma, lascia la macchina lì, passa. Ma a me che lei ci va spesso dalla mamma, non me la frutta nulla. Lascia la macchina sua. Io di più non le posso dire. E si prende il pullo. Ma vedete fare il pullo da chi viene oggi? No. No, non ho mai visto pullo io. Però il treno c'è. C'è il treno? Sì, c'è il treno. Quello che è Valghero. Ma adesso le comodità, prima si faceva, io ho fatto anni viaggiando in pullman, in treno per andare a lavoro, quanti anni ho fatto? Lo so. Vabbè, dai, già, che io mi devo preparare qualcosa, so già, se te metti mi vado un po' cauta libera, e vediamo un po' a fare qualcosa, domani c'è, oppure ci vuoi stanotte? No, stanotte non ci riesco perché domani mi ho chiuso dall'altra del testo. Io vedrò il parcheggio domani al Conti, tu pensa, Gazziccio, lo mangiano alle 7:20 e io trovo il parcheggio davanti alla strada proprio. Mi fermo lì in macchina, ascolto un po' di musica e poi faccio quello che devo fare. È l'unica, la porta del parcheggio in casino, tutta piedi me l'ha giocata, no? Ma è l'ora! No, apre prima, io vado, c'è l'appartamento un altro orario. Io l'altro giorno, Tonico, avevo un discorso, non avevo voglia di cenare, mi sono sgridato il sushi da Govo e me l'ho portato sino a casa, ma buon avviso. No, non ti ho capito già. L'altra sera ho detto, non ci avevamo voglia di cucinare, mi ho ordinato il sushi da Glovo. Buono, fa di tutto, cavolo. Adesso abbiamo anche le consegne gratis perché abbiamo ordinato due volte, abbiamo ordinato per due volte di sushi. Buono veramente, ti mandano la salsa, tutto quanto. Veramente buono. E poi fa di tutto e di più, capito? Fa panini, fa hamburger, fa di tutto. E praticamente Glovo è l'organizzazione che li porta e basta. Poi loro vanno dove tu vuoi la roba, la ordini direttamente internet e te la portano sino a casa. Sì, lo so, avevo fatto l'iscrizione, io ho sceso l'app e tutto quanto, poi l'ho cancellato. Devi pagare un tot a loro, giustamente lo fanno i facchini grazie, no? Però a me il sushi non mi è mai piaciuto, la verità. Poi, Non lo so se lo fanno poveracci in bicicletta, se hanno in realtà dove abito io. No, avranno la moto, lui poi ti insegna tutto l'itinerario. Praticamente tu lo ordini alle 9, ti scrivono alle 9 e mezza in consegna. E ti vedi tutto dove sono, lo stiamo preparando, sta uscendo, e mi trovo già a pascoli, tutto quanto. Vabbè. Forse prenderò di consegna 3-4 euro quando aspetta. Non lo so, perché io ce l'avevo gratis, praticamente io ho preso una volta e mi hanno dato il buono per avere la consegna gratis. Io la prima l'avrò pagata, ma poi adesso ce l'ho sempre gratis, capito? Perché ogni volta mi danno il buono per non pagare la consegna. È la prima volta quanto hai pagato, non lo sai? Non lo so, non ci ho fatto caso, là. Ho pagato il totale e basta, non ho chiesto quanto pagare il valore. Sì, ma comunque sarà solo 3-4 euro, dai. Poveraccio, anche loro lavorano, mica me ne grazie. Ah, ma con tutte le temperature, freddo, gas, pioggia, vento, loro lavorano sempre, ohia. Vabbè, comunque è buona sapersi, perché se puoi prendere pizza, cavolo, adesso la prossima volta voglio prendere calamari fritti e patatine, in base a un mezzo. Ah, io di solito ordino a pizzicotto 2, dico prendo 8:30, poi 9, 9 e mezzo, ci vado direttamente veloce e te lo faccio in fretta a me. C'è la Budibus, sono già arrivato, quindi. E prendo, arrivo a casa e è ancora calda la donna, ho preso il calamare che sono pure le bone, poi ho preso le verdure che lei voleva, le verdure grigliate, ho preso un misto di verdure grigliate, però era buono, la verità. Dove lo prendi, Torino? Ti ho capito, la grassella. No, Pizzicotto 2 si trova esattamente a Sassari 2. No, dove è Sassari di via? Dunque, scendo la Budibudi, non entrando la Pedolce, entrando a Sant'Orsola, sì. Entri lì, poi giri la prima a sinistra e lì all'angolo proprio c'è il Pizzicotto 2. Capito. E io faccio in fretta, faccio le mie curve, scendo la Budibudi, c'ho quegli arribizzo. L'altro ha ripunti, così. Cosa? L'altro Pizzicotto ha ripunti. Yes, quello è il pizzicotto 1, quello è il pizzicotto 2 e poi farò io il pizzicotto 3 con la pizzicotto 2. Ma i calamari bisogna avere anche le porzioni, perché una volta le ho ordinate, questi calamari hanno portato due porzioni che facevano pietà, cioè piccole, e alla fine mi sono girato con mio figlio e Tasco, facciamo una cosa, ordiniamoli qua giù, e li abbiamo ordinati sotto casa, ce l'avevamo sotto casa, l'abbiamo preso da un'altra parte e ci hanno portato delle porzioni piccole e ci hanno fatto pagare anche una barca di dinà. No, io la verità ho pagato 31 euro e ti posso dire che mi ha dato una figlia veramente grande, c'è due tiglie, uno c'era tutto calamari, l'altro c'erano le melanzane, zucchine, grigliate, peperone, vediamo che roba, veramente, proprio una bella mangiucchiata. Io adesso so come fare così, sono come le mie cucine, costa un bel gas, tutto quanto, gira che più rigida, facendoti i conti, ti conviene di più mangiare così, quando non hai voglia, siccome potevano sempre la pizza, adesso io mi sono stufato di mangiare pizza, sì mi piacciono, ma sempre pizza, sempre pizza, sempre pizza, spendiamo qualcosa in più, perché l'altro giorno ci sono stati più 50 euro, però abbiamo mangiato bene, c'era di tutti di più. E io adesso già, alla fine non è che, avevo visto, ho preso anche la bobola di riserva, perché la bobola ti parlo di 2 settimane fa, sta per finire, cazzo ancora attaccata, non gasso non finì mai, e c'ho sempre la bobola di riserva, però mi ha fatto incazzare, ho comprato 24,50, 10 kg. Passando, girando con la macchina, passo davanti alla Multis, guarda a fianco, più avanti, arrivo sul mondo, le 22 euro, oh balla, adesso ho preso qua, risparmio 2,50 euro, vale, vale. Prova radio 1, 2, 3, questo canale è occupato, buonasera. Cioè, non so se è meglio che tu entri così, però a me non mi ha disturbato, penso, e neanche l'amico. Entri così in un canale senza bussare, suona giù, cioè. Ma di griga, zando via. E la prova te la fai nel putiacchino, te la fai. No, ma guarda, se la... O è solito, Guiccio. E così, l'amica ti c'è parata. O rimane caccarate, vai. Beh, vedete il culo me. Avanti già. Io, beh, magari non se ne accorto tutto lì, che c'è la gente. Allora, sono fatto l'attivo di bianco, non ho sentito... Adesso li faccio la porta a terra, a vedere. Oh già, allora schiaccia il microfono, tu sei da tratti. Guarda adesso, forse lo stavo schiacciando male. Ecco, adesso è uscito. Perché è molto sensibile questo microfono, ma secondo dove lo tocchi non esce, capito? Perché non preme bene. Non so fare qualche cosa, lo ne so. Va bene. Tra la mano e patatine, l'ho deciso. Se solo voglio di quello. Se lei è d'accordo, mi sa che l'uomo ce lo porta. Niente, io ho mangiato pallarosso oggi con patatine al forno buone. Stasera mi faccio, ce l'ho già pronto. I crocette di pollo speziate, che bello, un po' piccantine. Ma quelle già pronte, quelle già cotte? Caffa, le scaldo e boh. E dove le compri quelle tue? Ma quelle le trovi alle Rospine, trovi la Lido, le trovi qualsiasi supermercato. No, io le alette trovo, ma le cosce no. Anche le coscette già alle Rospine. È bello sapersi, dai. Già mi piacciono anche a me. Se tu vuoi lasciare toccare sono ancora più buone, perché lo fanno arrosto con la legna e pure le speziano. Sono di una bontà unica, sono più piccanti delle altre, però sono buone. Dove? A Centro Carli. Allora, il pollo costa 4,99 alle Rospine. Ho mandato una persona, me lo prende il pollo rosso, che lo potremmo camminare quando stiamo male già. Cazzo. E cosa hai fatto? 8,50. E dove cazzo l'ho comprato? Ero preso lì a Nonna Isa, da Paolino. E che cazzo è una farmacia? Cos'è? Un pollo d'oro, E quello che li fa arrosto sono tuni che li cucinavo la legna, poi se ti rivolge di bagagucini. Ma a me la fotti nuda, tiro che sono buoni anche i loro spimmi. Che cavolo, sembra il pollo è già. Perché io ho visto che ero poi neanche magro sul pollo che mi ha puzzato, che io poi il pollo me lo mangio io, quello dei cani, capito? No, io già lo mangio anche io. Qualche cosa la carne ce l'avevo, però ho notato che la carne di pollo fa diarrea, e quindi non ne ero molta. No, due volte la settimana che lo do io già. Le faccio la pasta, le faccio tante altre cose, però non è che faccio proprio. Ogni giorno non si può dare fa diarrea, sì, cane, per bacco. Ma infatti prima li dopo sempre petti di pollo, poi ho visto che era così, ho mollato, non ero più dato, li stanno a carne normale, li do le fettine, li compro i reni e poi li faccio la pasta, un mese li metto anche le crocchette e mangio così. Ma a questo periodo ho di poco appetito, deve essere c'è qualche cane in calore, quando c'è cane in calore non mangia nulla. Vabbè, a chi pensa sempre... E come te l'uomo, va dove la prosa? E io la mangerò ma stessi. Vabbè, dai già, che modo tutto mi controllo la cosa da andare a mangiare. Per stuzzicare, dai. Che c'è una bella salsiccia così buona, un bel formaggio qua, mamma mia. Ok, dai, già ci sentiamo. Entra da qualcuno che ti fa impressione. Ok. Ci sentiamo già, stammi bene, a domani, ciao ciao. Ciao ciao Tony, è altrettanto, buonanotte. Ciao ciao, buonanotte.